Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti e buona Pasqua. Come avete trascorso la giornata? Mi auguro bene. Benissimo. Oh, sappiate che c'è anche domani. Domani si può stare all'aria aperta, mangiare uova sode, divertirsi. Allora io vi auguro buon divertimento per domani. E anche da parte mia un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70, 94.60 in FM. Per chi lo desidera abbiamo la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il podcast dal sito bluradioveneto.it. Stasera avremo una puntata un po' particolare. Un'intervista con un sacerdote di Padova, Don Benedetto Zampieri, che opera in Brasile e ci parlerà un pochino della sua missione. Prima dell'intervista ascolteremo un brano intonato all'occasione, che è l'Ave Verum di Mozart. Allora, qui al microfono abbiamo il Don Benedetto di Padova, Don Benedetto Zampieri, che esercita il suo sacerdozio in Brasile. E adesso sentiamo che cosa ci dirà lui, che come si trova in Brasile, che cosa fa di bello come esercizio di sacerdozio, e ci racconterà lui qualcosa, perché io sono affascinata da così queste zone, questi posti così lontani e dove i sacerdoti hanno veramente un compito, diciamo, bellissimo ma anche difficile. Comunque sentiamo se ce lo racconta un pochino il nostro Don Benedetto Zampieri. Buonasera a tutti. Buonasera. Bentrovati. Buonasera Don Benedetto, buonasera. Allora, ci parli un pochino di lei. Sì. Io sono un prete di Padova, ordinato nel 2010 e nel 2014 mi è stata fatta un po' la prima proposta se ero ancora disponibile a assumere degli incarichi anche fuori Italia, in paesi di missione. Io con già ho risposto il mio sì, dopo questa cosa è maturata con un po' di tempo e dal settembre scorso mi trovo in Brasile. In particolare la chiesa di Padova è gemellata con due diocesi. La prima è Duque de Caxias, sì, che è nella periferia di Rio de Janeiro, e la seconda, che sta avviando adesso un progetto per cui sono stato mandato lì, che è nella Roraima, che è l'Amazzonia del Nord. Ho capito. Quindi, ma per adesso sono lì solo da alcuni mesi, il mio compito è quello di formarmi, conoscere, inserirmi un po' alla volta in questo mondo che è molto diverso da quello italiano, proprio per avere anche un'idea di come poi agire, operare in concreto quando assumerò un incarico diverso, nuovo. Come mai ha deciso di andare in Brasile? Allora, non è stata una mia scelta, è stata come sempre, ok, un prete mette tutta la sua vita, la sua disponibilità nelle mani della Chiesa di Padova, poi sono così le richieste che vengono dal mondo, che interpellano anche Padova e che poi sceglie tra i sacerdoti chi è più disponibile, chi potrebbe essere adatto a assumersi questo incarico, e tra i tanti sono stato scelto io, insomma. Questa cosa è nata negli anni del seminario, in particolare fin dal primo anno ho partecipato al gruppo missionario tra i seminaristi, era quello che teneva un po' i contatti con i vari missionari di Padova in giro per il mondo, tra il Kenya, la Thailandia, l'Ecuador, il Brasile stesso. E il quinto anno di seminario ho partecipato con i miei compagni di ordinazione, di classe, a un viaggio in Kenya, e ricordo che lì, nella visita missionaria ai preti di Padova che operavano lì, sono rimasto proprio affascinato dal tipo di esperienza che stavano facendo, che traducevano il Vangelo anche in promozione umana, in attività di sostegno di chi era più povero, più marginato. E così, insomma, di ritorno da quel viaggio in Kenya, ho dato la mia disponibilità anche per esperienze di servizio, di missione, se fosse stato necessario. E come si trova in Brasile? Il Brasile è un mondo molto, molto diverso dall'Italia. Diciamo così, c'è un aspetto immediato che appare subito a uno straniero che arriva, che è il calore della gente. Noi qui italiani, soprattutto veneti, abbiamo uno schema mentale che di sospetto un po' verso tutti gli stranieri che vengono. Siamo più freddi? Un po' freddi, sì. Distaccati sicuramente, sì. Ma anche con un pregiudizio di fondo. Sembra che lo straniero venga a rubarci qualche cosa, queste cose qui particolari. Ecco, la storia del Brasile è tutta una storia di migrazioni, di persone che vengono, vanno, a volte forzati, come nel caso della schiavitù dei negri africani che venivano portati in Brasile a lavorare, e quindi lo straniero è una cosa normale. Sì, come è stato, vi accettano molto bene comunque, sì, vero? Ecco, io ho sempre trovato una comunità molto calorosa, accoglienti, non ti fanno mai pensare il fatto di essere straniero, tanto per dirti, già dal primo giorno mi dicevano che parlavo benissimo portoghese, cosa che non era assolutamente vera. Ma quindi sa parlare portoghese. Beh, quindi sì, perché altrimenti lì penso che ci siano pochi che parlano in italiano. Beh no, in italiano, non solamente tra preti di Padova, ogni tanto scappa qualche parola italiana, però sicuramente, ecco, nel parlare con la gente si parla la lingua che la gente conosce, quindi certo. Il portoghese brasiliano, che è una variante del portoghese del Portogallo. Allora, e come è stato accolto? Bene, mi dicevano. Molto bene. Che cos'è, una parrocchia? Allora sì, bisogna un po' scardinare la nostra idea di parrocchia italiana, veneta in particolare. Lì la parrocchia è una serie di comunità in rete che fanno parte di un territorio più vasto. Per esempio adesso i preti di Padova hanno in gestione una parrocchia che si chiama Villardo Stelisch, che comprende una chiesa centrale e altre 17 chiesine di quartiere, ognuna che ha una struttura, una sua autonomia, con persone laici, insomma mamme e padri di famiglia che gestiscono la vita religiosa, ordinaria, di servizio, e i preti fanno attività di coordinazione delle varie attività che ci sono, in più celebrano la messa ovviamente, perché un laico non può farla ancora, e così coordinano, quindi c'è il consiglio pastorale, il consiglio delle varie comunità, e poi partecipano di quello che possono fare nell'opera di evangelizzazione. Una curiosità, sì. La messa la dite in portoghese? Sì, certo, in portoghese, con lo stile tipico brasiliano. Ho capito. È un rituale. E come sentite la religione cristiana lì in Brasile? Allora, adesso soprattutto c'è una grande provocazione forte che viene dalle chiese neopentecostali. Comunque, diciamo così, di fondo c'è una religione che è naturale. Sì. Anche nel modo di parlare della gente, ad esempio quando chiedi come va, ti rispondono tutto bene grazie a Dio, è normale, sì. Dire sì, nominare sì. Dio nelle sì. conversazioni ordinarie. Ah. Oppure anche i figli chiedono al padre prima di uscire di casa la benedizione, pensa a un padre, il padre benedice il figlio, dopo va a scuola, che so, lavorare, eccetera, queste cose qui. Ah, è una bella cosa questa. Sì, è particolare, no? Questo soprattutto nelle famiglie più tradizionali. Perché... Però in generale c'è questo sentire anche che è naturale un'espressione religiosa come un'espressione di qualcosa che può motivare quello che fai ogni giorno e darti anche la giusta dimensione. A domenica voi nelle chiese avete parecchia gente? Sì, sì, sì, generalmente sì. Non sono ovviamente tutti. È chiaro, una sì. minoranza, anche lì c'è la crisi, nel senso che anche lì i ragazzi, quando raggiungono una certa età, dopo fanno percorsi un po' autonomi, ogni tanto ritornano per il dopo la cresima c'è sempre l'esodo dei ragazzi che poi tornano per il matrimonio, eccetera. Però in generale ci sono più laici, ecco, famiglie che partecipano in prima persona a tutte le attività, proprio perché non essendoci preti occorre che qualcuno gestisca in pratica tutte le cose ogni giorno. E lì avete pochi preti. Avete pochi preti allora lì in Brasile? Diciamo così, rispetto alle esigenze che ci sono, lì non si può assicurare una messa ogni domenica, ad esempio. Ah, ho capito. E quando non c'è il prete, comunque sono ministri della parola, cioè papà, mamme di famiglia formati, che fanno una condivisione del Vangelo e che aiutano, animano la vita così della domenica, della comunità. E mi dica, la sua vita, la sua giornata lì in Brasile, come sì, per le varie pratiche religiose, ma come la trascorre? Dunque, così, generalmente io vivo adesso con altri 4 preti di Padova. Quindi bene, siete... siete trovati. È una comunità, sì, già, sì. Comunità che evangelizza, missionaria. Ci siamo al mattino, per le varie cose... C'è la preghiera con la condivisione sul Vangelo del giorno in portoghese, per praticare, sì. Entrare nella logica della lingua. Poi la mattina di solito ci si fanno delle visite alle famiglie, alle case, in alcuni quartieri dove si vede che ci sono problemi un po' più seri, di persone malate o più bisognose di una parola di conforto, così. Nel pomeriggio di solito c'è qualcuno che viene al centro della chiesa per ricevere consigli, qualsiasi cosa, problemi così. La sera c'è una messa, le serate dopo ci sono incontri di formazione, di condivisione, di catechesi. Ma secondo lei la gente lì partecipa di più che da qua? Allora, la partecipazione è sempre legata un po' a una scelta personale. Diciamo così, non essendoci una tradizione molto forte di cristianesimo solido, la gente partecipa perché ci crede un po' di più. Sì, non è che partecipi perché se non vado a messa magari il tale mi nota perché non vado a messa, proprio partecipano no, perché... è proprio un altro sentire. Perché è proprio un sentire. Di vivere. Lei vive in una parte povera o abbastanza? Allora, tra le 18 comunità ce ne sono alcune nella favela, qui proprio la parte più povera, e altre comunità che invece stanno bene, insomma c'è un tenore che è simile a quello di alcune parrocchie italiane. Ma quelle povere? Sì. Perché ma sono magari quelle che sono più vicine alla chiesa? E allora, di solito chi è più povero è più portato a vedere anche nei simboli cristiani la sua occasione di riscatto. Sì. Perché effettivamente il cristianesimo ha di bello questo, che nei segni, che so, del battesimo, dell'eucaristia, della condivisione, della morte e risurrezione di Gesù, vede anche, interpreta quello che la gente vive ogni giorno. Quei suoi sogni anche di ripresa, di ripartenza, di superamento delle ferite, di una storia di violenza, molto spesso. C'è violenza anche lì, vero? C'è molta violenza. La povertà, se vuoi, è molto diversa tra il Brasile e altre zone del mondo. Lì la povertà è perché è legata a ingiustizia, a storie di violenza che vengono considerate normali. Forse... proprio per questo sono più legati, magari vengono da voi a chiedere consigli. Sì. Ecco, per questo anche l'attività, se vuoi, è meno legata al servizio assistenziale, più alla promozione umana, anche culturale, anche un po' di valori, di modo di interpretare le cose e anche di impegnarsi poi concretamente in un'azione che possa aiutare a credere di più. Ma se stessi e nella società. C'è abbastanza cultura lì? Lì non c'è molta cultura. No. In generale adesso ci sono le scuole, e sì. I bambini quasi tutti vanno a scuola senza problemi, eccetera. Però dai 50 anni in su c'è proprio un po' una carenza. Ma come mai questa carenza? Perché da giovani non sono andati a scuola? Perché non hanno potuto... perché da giovani non sono andati a scuola, o perché... è proprio tipico così di una persona che è molto semplice accettare un po' le cose. Non so come spiegarlo. Sì, ho capito. Okay. Sì. Per chi è nato in un certo contesto è difficile vedere che è possibile fare una scelta diversa. Loro sì, ma come era qui anche una volta. Esatto. Ecco, perché... E trova molta diversità da come si pratica la religione qui da noi e come la praticano lì, che la praticate lì. Sì, allora, normalmente un italiano e un europeo prima arriva con la testa, sì. Ragionamento, e poi porta il cuore, le emozioni, altre cose. Il brasiliano fa il contrario, cioè prima arriva con le emozioni, e poi arriva con la testa. Coinvolge, ci sono pianti durante le messe, quelle cose, commozione, eccetera, e dopo ci ragiona sopra. Ho capito. E questo in tutti gli aspetti della vita, nel bene e nel male, perché ovviamente se sei più legato alle emozioni, anche se più portato a farti fregare, tra virgolette, da chi sa giocare con le emozioni delle persone. Questo è brutto. E qui già appunto c'è anche... il confronto tra il modello un po' di evangelizzazione della Chiesa Cattolica e delle chiese neopentecostali che si stanno diffondendo adesso come sette. Cioè, noi lavoriamo molto sulla coscientizzazione delle coscienze. Ho capito. Cioè, perché abbiano anche una possibilità di riflessione critica, di fronte ai fenomeni, di impegno sociale, di trasformazione delle cose. Le chiese evangeliche, no, nel senso che hanno proprio una comunicazione di tipo verticale, io insegno qualcosa a te che tu non sai, e tu hanno una tipo di religiosità molto estetica, statica, effetto stadio, con canti, urla, eccetera, via di seguito, dove le persone si mettono un po' in estasi, fuori dalla realtà, dimenticano per un po' i loro problemi, e dopo passa tutto. Ecco, l'ultima domanda che poi... Così, come sono le funzioni? Sono come le nostre? Sono un po' diverse? Allora, è diverso lo stile. Come dire, proprio perché è un popolo che respira con le emozioni, anche nelle messe si caricano molto le emozioni. Quindi del canto quasi tutti partecipano, a volte ci sono dei movimenti dove tutta l'assemblea è coinvolta, che sono quando alza le mani, quando applaude e così. Bello. Poi il tipo stesso anche di celebrazione è un po' diverso rispetto al rito che c'è in Italia e in altre parti d'Europa. Ci sono più risposte da parte della gente. E immaginavo, chissà perché lo immaginavo. Beh, il nostro tempo purtroppo è scaduto. Io la ringrazio, Don Benedetto, di avermi concesso questa intervista, perché la desideravo molto. Adesso quando è che torna? Adesso già il 13 maggio torno in Brasile e da giugno si inizia quella nuova fase dell'Amazzonia, che è proprio un mondo completamente diverso rispetto a questo che conosco adesso. Tu vai a scoprire un giorno dopo. Quindi quando tornerà ci racconterà la sua esperienza in Amazzonia. Certo. Va bene, Don Benedetto, io la ringrazio tanto e la saluto, le faccio tanti auguri e buon viaggio per il ritorno in Brasile. Grazie e mille. Buona permanenza. Un abbraccio a tutti. Grazie, vale. grazie. E ringraziamo Don Benedetto per la sua testimonianza e andiamo ad ascoltare una sonata di Scarlatti. Ed eccoci di nuovo in studio e concludiamo così questa puntata speciale per le feste pasquali, ringraziando naturalmente ancora una volta Don Benedetto e naturalmente a Dio piacendo alla prossima volta. Saluto anch'io, ancora tanti auguri. Beh, facciamo gli auguri di Pasquetta, chissà che la gente vada un pochino all'aria aperta a divertirsi un po'. E come sempre vi dico ciao ciao e buon divertimento. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.